cosa non va da quando ho amato te. Sì, qualcosa non va, c'è come un vuoto in me. Quando approfittando del chiarore della luna dolcemente t'ho baciato e t'abbracciato, che sbadato sulla tua bocca ho lasciato il cuore, ho lasciato il mio cuore da te. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, per un bacio che hai dato a me. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor, lasciato il più gran tesoro per un bacin d'amore. Che sbadato, che sbadato per un bacin d'amore. Quanto tempo dovrò aspettare per un bacin d'amore, per un bacin d'amore. Senza cuore non posso stare. Appena ti vedrò me lo riprenderò con un bacin d'amore. Ho lasciato da te il mio cuore, amor, per un bacin d'amore. Succedono tanti guai. Che sbadato, che sbadato, che sbadato, che sbadato. Più sbadato di me forse nessuno c'è, ma più bella di te certo nessuna c'è. E sperando di poterti presto riabbracciare, di una sola cosa ti vorrei pregare: abbi cura del mio cuore, non lo sciupare per carità. Per un bacin d'amor, per un bacin d'amor. Senza cuore non posso stare. Appena ti vedrò me lo riprenderò con un bacin d'amor. Che sbadato, ho lasciato da te il mio cuore, amor. Che sbadato, che sbadato, per un bacin d'amor.